Ninna nanna che si suona la chitarra con due dita. Ninna nanna, ma che parla di una storia già finita. Le parole le ho imparate da una donna che conosco. Una donna che ha lasciato questa casa troppo presto. Perché il cielo si fa rosa quando è sera. Luce accesa per qualcuno che ha vergogna, ma ha paura. Indovina quale sogno viene a farti compagnia. Ninna nanna, ninna nanna che ripete, mamma mia.